Juana Inés de la Cruz. Il 1600 fu un secolo in cui vissero alcune donne che ancora oggi ci lasciano sbalordite per la loro straordinaria intelligenza, desiderio di conoscenza e velocità di apprendimento. Abbiamo già parlato delle seicentesche erudite europee Elena Corner Piscopia, madrina della nostra scuola, e delle sue contemporanee Arcangela Tarabotti, Anna Maria van Schurman, Elisabeth di Boemia e la regina Cristina di Svezia. Ma se costoro, pur nelle loro limitazioni, poterono studiare e vivere abbastanza liberamente nella vecchia Europa, non si può dire altrettanto per la loro coeva messicana Juana Inés de la Cruz, una delle più grandi erudite dell'America Latina. Juana de Asbaje y Ramírez nacque in una data incerta fra il 1648 e il 1651 in un villaggio circa 60 chilometri a sud di Città del Messico, allora capitale del vicereame della Nuova Spagna. Sua madre, creola e analfabeta, dirigeva però una masseria e praticamente era il capo della comunità. A 3 anni Juana imparò a leggere e scrivere grazie alla complicità di una sorella maggiore che la conduceva con sé da una maestra. La piccola si distinse fin dall'infanzia per la sua precocità intellettuale, per la determinazione e la sete di conoscenza. A 7 anni chiese alla madre di acconsentire a mandarla all'università travestita da maschio. E infatti, l'anno successivo, la madre fece probabilmente l'unica cosa in suo potere per andare incontro al desiderio di conoscenza di quella sua figlia e la spedì a vivere con una zia a Città del Messico, nella casa del nonno materno, letterato e poeta, proprietario di una fornita biblioteca. La bambina nello studio trovava sollievo alla solitudine, si applicava con impegno e dedizione al punto da rifiutare gli alimenti che secondo lei potevano limitare la sua performance intellettuale e senza pietà si puniva tagliandosi i bellissimi capelli ogni volta che non raggiungeva gli obiettivi di studio che si era prefissata. Guidata nell'apprendimento solamente dalla propria curiosità e intelletto, apprendeva con una rapidità eccezionale. Si impadronì del latino in sole 20 lezioni e coltivò diversi interessi: poesia, astronomia, composizione musicale e pittura. Nel 1660 gli zii materni decisero di presentare la nipote adolescente a corte. La marchesa e viceregina Leonor Carreto fu così favorevolmente colpita dall'intelligenza e dalla grazia di Juana Inés che la nominò sua beniamina con il titolo di amatissima. Il biografo di Juana scrisse che la marchesa non poteva separarsi un momento da lei. La vita di corte fu determinante per la giovane Juana Inés che in quel periodo acquisì modelli di comportamento e di stile ai quali si attenne per tutta la vita. A 17 anni, autodidatta e non ancora suora, Juana sostenne nel palazzo del viceré un esame di cultura davanti a una giuria di professori universitari, proprio come la sua coeva Elena Corner Piscopia a Padova. Il viceré, che la sosteneva, usò per descrivere la dissertazione di Juana la seguente similitudine: una nave armata che si difende da poche imbarcazioni senza alcuna possibilità di intaccarla. Poi, improvvisamente, la scelta che influenzò pesantemente il resto della sua vita. Entrò come novizia in convento, scrivendo lei stessa la seguente spiegazione. Presi i voti perché, pur sapendo che lo stato monacale presentava aspetti che non mi andavano a genio, era comunque, per il netto rifiuto che provavo del matrimonio, la cosa meno fuori luogo e più congrua che potessi scegliere per la mia salvazione, al quale progetto cedettero e piegarono il capo tutti i miei capriccetti, ossia il desiderio di vivere sola, di non avere alcuna occupazione che intralciasse la libertà dei miei studi, né rumore di comunità che disturbasse il quieto silenzio dei miei libri. Ecco una volta ancora l'eterna ricerca di una stanza tutta per sé che Virginia Woolf avrebbe enucleato 2 secoli e mezzo dopo nel suo omonimo, famosissimo trattato. Pronunciò i voti verso i 20 anni Juana e la madre le regalò una schiava che la servisse, cosa che a quell'epoca era considerata normale. Juana era creola e dunque la sua pelle chiara la inseriva di diritto nella casta dominante, messicana. Inizialmente aveva voluto diventare carmelitana, ma la rigidità della regola le fece cambiare scelta, giacché questa era dettata dall'amore per lo studio e non dall'attrazione per l'ascetismo e la povertà. Rivolse dunque la sua attenzione al convento di San Geronimo, dove vivevano circa 200 tra monache e loro domestiche. Le monache vivevano in appartamenti lussuosi con acqua calda e ogni comodità. Potevano vendere e acquistare proprietà o effettuare investimenti tramite intermediari. Possedevano gioielli, abiti, biancheria e, nel caso di Juana, libri. Ben presto il suo salotto divenne un punto d'incontro di intellettuali e letterati. Nel frattempo, in sostituzione della viceregina Leonor Carreto, il cui mandato era scaduto, fu mandata dalla Spagna come sua successora la contessa Maria Luisa Manrique de Lara y Gonzaga, che ebbe con Juana, divenuta bellissima, un'amicizia davvero particolare e molto intensa. La relazione con la contessa divenne l'asse portante della vita di Juana. Con l'ingresso della contessa nella sua vita, Juana Inés guadagnò, oltre a un periodo di intensa felicità, una protettrice potentissima. Ora Juana poteva tranquillamente ignorare le rimostranze dei superiori ecclesiastici che la incolpavano per la sua dedizione agli studi, o, se decideva di rispondere, poteva farlo in totale sicurezza. Ella era la beniamina della corte di Maria Luisa, come lo era stata della sua predecessora. La contessa si premurò di far circolare le produzioni artistiche della sua beniamata, la quale, protetta dal favore dei viceré, poté scrivere liberamente poemi, commedie e trattati che mettevano in luce la sua intelligenza, il suo coraggio, la sua determinazione e le sue finezze nell'argomentare. La sicurezza di avere le spalle protette le fece licenziare con la lettera Autodefensa Spiritual il suo confessore, padre Antonio Núñez de Miranda, che osteggiava la sua attività di letterata e cercava di convincerla a rinunciare. Intorno ai 35 anni Juana scrisse il poemetto Primero Sueño, Primo Sogno, un originale viaggio onirico dell'anima, sola e disillusa, verso un al di là che si dissolve non appena raggiunto. In Primo Sogno e in altri poemi, Juana si collegava a un'antichissima tradizione ermetica medievale di origine egizia che trasmetteva verità spirituali sotto forma di oscure e misteriose metafore e allegorie, grazie alle quali poeti e mistiche si proteggevano dal rischio di finire nelle sgrinfie dell'Inquisizione. Juana rese partecipe delle sue opere il mondo meticcio che era parte della nuova società coloniale. Con attitudine antropologica più che spirituale, fece partecipare alle cantiche di celebrazione religiosa a fianco alle diverse etnie spagnole giunte da oltreoceano con le navi, quali baschi e gallegi, anche i neri e i nativi aztechi nahuatl, con il loro rito del mangiare il Dio, così simile all'Eucaristia cattolica. Questo naturalmente mise in allarme la gerarchia ecclesiastica per il pericoloso spirito pagano che manifestava, ma Juana voleva che i suoi scritti giungessero a un pubblico più vasto rispetto ai colti membri della corte e alla casta ecclesiastica, per questo sceglieva un linguaggio sovversivo. Anche il suo libro di cucina fu considerato pericoloso quanto un vero e proprio trattato di filosofia e spiritualità, dove all'elemento teologico si univa quello magico pagano che caratterizzava la cultura nativa di cui Juana, in quanto creola, sentiva di far parte. Per molti versi possiamo mettere in relazione Juana con Tita, la protagonista dello splendido romanzo Come l'acqua per il cioccolato, della sua conterranea Laura Esquivel, da noi presentato in audiolettura integrale su questo canale. Tita passa la giornata in cucina, preparando pietanze che sono veri e propri processi alchemici, arrivando a influenzare le emozioni e perfino le azioni di coloro che mangiano le sue squisite pietanze. In entrambi i casi il cucinare, componente molto importante nella cultura messicana, viene visto come un rituale magico. La cultura pagana dell'America Latina ne è totalmente impregnata. Vedere, scrive Juana, che un uovo si unisce e brucia nel burro o nell'olio, e al contrario si scioglie nello sciroppo. Vedere che, perché lo zucchero resti fluido, basta aggiungere una minima parte d'acqua in cui è stata messa mela cotogna o altra frutta acerba. Vedere che il tuorlo e l'albume dello stesso uovo sono tanto opposti che in quelli che servono, uniti allo zucchero, ognuno lavora da solo e insieme non funzionano. Nel momento in cui la sua fama superò i confini del Messico e cominciò ad essere apprezzata in Spagna, Juana, non più protetta dall'arcivescovo de Ribera, che aveva simpatia per lei e per la sua produzione letteraria, ma che nel frattempo era deceduto, si trovò a fronteggiare da sola un nemico spietato, il nuovo arcivescovo di Città del Messico, Francisco Aguiar y Seijas. Costui, misogino in modo patologico, disprezzava il sesso femminile tanto da vietare alle donne persino di entrare nella sua residenza. Che una donna fosse riconosciuta come intellettuale già era per lui un affronto, ma egli trovava addirittura inconcepibile che una monaca scrivesse canzoni per balli, versi d'amore e testi di teatro che di sacro avevano poco o nulla. Naturalmente altri religiosi avevano scritto di argomenti profani, ma Juana aveva un aggravante, era femmina. E se nessuno si era lontanamente sognato di rimproverare gli autori maschi per le loro poesie profane, per la libertà intellettuale di Juana cominciò viceversa a delinearsi un terribile pericolo. Il 1688 fu per Juana un anno difficilissimo. Morì sua madre e scadde il mandato vicereale. L'amata contessa Maria Luisa tornò in Spagna con il marito e Juana, non ancora quarantenne, rimase priva di ogni protezione contro i suoi persecutori, tra cui appunto il terribile arcivescovo di Città del Messico, Aguiar y Seijas. La contessa non smise di darsi da fare per la sua protetta anche a distanza e grazie a lei il primo volume delle opere di Juana venne pubblicato in Spagna col titolo Inundación Castálida, che raggiunse in breve tempo 9 edizioni, facendo conoscere la monaca poetessa in tutta la Spagna. Ma il peggio doveva ancora venire. 2 anni dopo, in una conversazione privata con il vescovo di Puebla, Juana confutò uno dei sermoni del famosissimo predicatore gesuita Antonio Vieira, ponendosi contro la filosofia gesuita stessa. Il vescovo la convinse a trascrivere le sue parole e, senza chiedere la sua autorizzazione, tradendola e ingannandola, probabilmente per poterla incastrare, fece pubblicare a sue spese lo scritto di Juana con il titolo di Carta Atenagorica, l'unica opera puramente teologica di Juana. Lui lo fece pubblicare proteggendosi vigliaccamente dietro lo pseudonimo di Suor Filotea. Una volta pubblicato il pamphlet, il vescovo poté inviare a Juana una lettera di monito a cui lei rispose dopo 3 mesi di sofferta riflessione. La risposta a Suor Filotea era un'apologia che la monaca fece di se stessa, difendendo e giustificando coraggiosamente il proprio talento e le proprie scelte di vita e di fede, una difesa commovente e appassionata della sua carriera intellettuale e del diritto delle donne alla conoscenza e agli studi. Ma Juana Inés Ramírez de Asbaje, bimba senza padre, senza risorse economiche né protezione, dovette affrontare l'oliata e potente macchina della repressione al servizio del dogma, che dichiarava la donna inferiore, nulla più che un animale da riproduzione su cui pesava tutta la maledizione biblica del peccato. Pertanto, la più grande nemica della salvezza del maschio. In questo contesto, l'enormità dello sforzo di volontà dell'autodidatta Juana, figlia del popolo che difende per la prima volta il diritto delle donne, spicca ancora più ciclopico e adamantino, tanto che fu rivendicato dal movimento delle donne come uno dei primi manifesti per la parità dei diritti fra i sessi. Nella sua risposta a Sor Filotea, la coltissima Juana presentò l'esempio delle donne bibliche, la giudice Debora, le regine Saba ed Esther, la profetessa Abigaele, a ratifica del diritto delle donne allo studio, alla cultura e alla spiritualità. Se può risultare incomprensibile il motivo per cui il vescovo di Puebla aveva obbligato Juana a trascrivere una conversazione che riteneva pericolosa, per poi darla egli stesso alle stampe con l'inganno, non vi è alcun dubbio invece riguardo alla sadica soddisfazione dell'arcivescovo Aguiar Iseikas, che finalmente aveva la possibilità di punire l'arditezza e di umiliare il talento di Juana. Sebbene la contessa dalla Spagna organizzasse la difesa, pubblicando a sue spese tanto gli scritti di Juana quanto quelli in sua difesa, questo non fu sufficiente a salvarla. Juana richiamò presso di sé il confessore che aveva licenziato, Antonio Núñez de Miranda, il quale però adesso si dimostrava crudele e spietato. Sarebbe stata perdonata solamente se avesse rinunciato alle lettere. Juana dovette presentare umilianti documenti che attestavano la sua rinuncia all'attività di letterata. Fu costretta a consegnare all'arcivescovo Aguiar y Seijas tutti i suoi libri e gli strumenti musicali e scientifici che aveva ricevuto in dono. Aguiar y Seijas, uno dei torturatori spirituali di Suor Juana, un uomo per il quale persino l'igiene era eresia e che si lasciava divorare dai parassiti per non commettere il peccato di lavarsi, vendette tutto a scopo di beneficenza e, non contento, confiscò i fondi del convento che Juana amministrava. L'anno successivo, Juana, per evitare l'accusa di eresia, arrivò a firmare con il proprio sangue la sua completa rinuncia agli studi. Le torture avevano sortito il loro effetto e Juana ritrattò come la sua omonima Giovanna d'Arco, obbligata a scrivere un vergognoso mea culpa nel quale si accusava dei più orribili crimini nel modo in cui si estorcevano le ammissioni di colpa nelle camere di tortura dell'Inquisizione. Annientata, Juana iniziò anche a martoriare il suo corpo con cilici e flagelli. Non vi è dubbio che l'essere donna fosse un aggravante, e tuttavia nemmeno questo può spiegare l'efferata crudeltà della condanna che le inflissero le tre autorità a cui doveva obbedienza: l'arcivescovo di Città del Messico, il vescovo di Puebla e l'implacabile confessore gesuita. La condanna al silenzio e la negazione del diritto allo studio cui la obbligarono voleva sottrarre a un'intelligenza ritenuta pericolosa le armi di cui si serviva per rinforzare e risvegliare la propria coscienza. Tale tortura portò Juana a soccombere al senso di colpa per aver progettato di affermare il proprio sapere di donna. Nel 1695 una mortale epidemia colpì improvvisamente Città del Messico. Nel convento di San Geronimo le monache furono decimate e anche Juana si ammalò, ma continuò a prendersi cura amorevolmente delle consorelle fino a quando lasciò il corpo invocando il perdono. Il suo fu un vero e proprio femminicidio. Non troviamo altre parole per definire l'azione volontaria e consapevole di torturare fino a uccidere una persona per il fatto che è femmina. Stolti uomini che accusate la donna senza ragione, ignari di esser cagione delle colpe che le date. Io molti argomenti fondo contro le vostre arroganze, che, unite in promessa e istanze, l'inferno, la carne e il mondo. Abbiamo visto che la scelta del convento per Juana era stata dettata dalla impossibilità per una donna di lavorare e vivere sola al di fuori del matrimonio. Privata dello studio, Juana se ne ammalò tanto da far revocare la proibizione, ma ormai era tardi, il suo equilibrio psichico era compromesso e lei era talmente straziata dal desiderio di obbedire che cominciò a somatizzare i traumi psicologici, continuando ad autoumiliarsi fisicamente e verbalmente con parole molto simili a quelle usate per definire se stesse anche da Hildegarda di Bingen e da Teresa de Avila. Per le donne è sempre stato fondamentale ribadire, ribadire, ribadire la sottomissione alla gerarchia ecclesiastica e al dogma se volevano continuare a operare. Nella sua cella, negli ultimi suoi giorni, insieme ai pochi libretti devozionali che le era stato permesso di tenere, fu trovato un ultimo poema a cui questa coraggiosa donna affidò un ben chiaro messaggio. Che magicas infusiones de los indios herbolarios de mi patria entre mis letras el hechizo derramaron. Quali magici infusi degli erboristi indios della mia patria tra le mie lettere lanciarono l'incantesimo.